Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e soprattutto buon anno. Buon anno di questa prima puntata del 2012. Io approfitterei per parlare una volta di nobili decadute e poi più avanti di calcio televisivo. In che senso nobili decadute e soprattutto quanto sia nobili che decadute? Diciamo che scorrendo le classifiche delle seconde divisioni in Europa, e cioè la nostra Serie B per capirci, saltano fuori che sono o al comando o nelle vicinanze immediate un sacco di squadre di sangue blu, poi più o meno blu, ma certamente d'un bel colore nobile. Allora, intanto bentornato e buon anno a Nicola Roggero. Grazie Gigi, buon anno anche agli ascoltatori. Senti, il viaggio comincia ovviamente da molto vicino, perché in Italia è in testa il Torino, che i suoi quarti di nobiltà indubbiamente li possiede. Allora, dato che è notorio che Torino è una squadra che ti sta nel cuore, vorrei cominciare da lì, nel senso per provare a capire quanto potrebbe essere la volta buona quest'anno per il Torino, che cosa che sembrava certamente fino a fine novembre, non dico una pratica già fatta, ma in ogni caso molto ben avviata, e poi invece c'è stato un dicembre leggermente più difficilino. Ma io continuo a pensare che sia una pratica altamente fattibile, ecco, se non fatta. Credo che sia Padova, partita dove poi sono successe delle cose abbastanza singolari, che Modena siano stati più incidenti di percorso che non una spia di qualche mancanza della squadra, che a mio parere è la più completa della Serie B, in virtù anche del fatto che la Serie B obiettivamente non mi sembra di un livello formidabile, e soprattutto in virtù del fatto che il Torino ha dei giocatori certamente di categoria superiore. Penso a Dogbon in difesa e penso a Bianchi in avanti, anche se Bianchi ultimamente ha segnato poco, quindi continuo a pensare che la promozione sia tranquillamente nelle corde di questa squadra. Gran merito va a Ventura, il tecnico, che ha riportato con la sua saggezza, con la sua tranquillità, proprio quella tranquillità che al Torino manca sempre. È incredibile quanto i tifosi del Torino continuano a essere talmente umorali. Adesso sentivo addirittura che qualcuno già aveva le mani nei capelli per queste due battute d'arresto. Sì. La squadra fosse ultima in classifica, chissà cosa dovrebbero dire alla Sampdoria, ecco, tanto certo, per fare un esempio. E poi l'altro Torino, insomma, è carino pensare che c'è anche il Verona, che è un'altra grande, come avrebbe suggerito Brera, visto che è una squadra che nella sua storia ha vinto uno scudetto. Esatto. E insomma, qui rischia di tornare in Serie A due squadre che poi, sempre secondo Brera, comporrebbero delle classiche, come sono le squadre che hanno vinto almeno un titolo. Molto, molto vero e molto opportuno come introduzione. Quindi il Torino c'è, ripeto, c'è a metà stagione, perché poi dall'Epifania, quindi tra pochi giorni si ricomincia e si vedrà se il 2012 confermerà le tendenze del 2011. Ma insomma, per esempio, hai ricordato opportunamente il Verona. Certo che 7 vittorie di fila e poi un pareggio, insomma, significano che evidentemente questa squadra, grazie anche a Mandorlini, ha trovato il suo passo. Ma io adesso uscirei dall'Italia, magari dopo aver ricordato che anche il Padova, che pure non ha mai vinto e non farebbe classica, ma la sua aura da piccola nobile decaduta ce l'ha, no Nicola? Sicuramente, insomma, era la squadra, direi che era la provinciale per eccellenza negli anni 50, esatto. Rocco, ma poi provinciale mica tanto, perché aveva dei nomi, penso ad Amrin, penso a Nicolè, penso a Brighenti, penso a Stivanello, certo. Poi naturalmente i famosi Manzi di Rocco, da Blasona a Scagnellato, insomma, magari nomi che dicono poco i ragazzi di oggi, ma che per l'epoca giocavano un calcio formidabile. C'era un argentino rosa che faceva il trequartista e poi la squadra giocava con tre punti, quindi altro che Catenazzara. Sì. Sì. Ogni tanto, ma poi una squadra che giocava evidentemente un calcio meraviglioso. Quando c'era necessità. Terza. Come no, Umberto Rosa, un vero grande giocatore. Allora, facciamo questo giro d'Europa. Cominciamo da Torino, andiamo verso nord, quasi dritto, direzione Parigi, 200 km circa, 150 sulla destra, leggermente più in basso, troviamo Reims, quindi troviamo tanto la capitale dello Champagne, che non è mai un brutto viaggio, no? Soprattutto in questi giorni di bollicine. Ma troviamo uno Stade Reims che ha una storia assolutamente gloriosa, che è sparito dalla Ligue 1, cioè dalla Serie A, dal 79, quindi da un'eternità, e che adesso mi pare finalmente abbia rimesso il naso fuori. Sì, il Reims è in posizione per tornare appunto in quella Ligue 1 da cui manca da 32 anni, era sparito addirittura dalla Ligue 2 perché due anni fa era retrocesso in terza serie e di conseguenza davvero si erano perse le tracce di questa squadra, di cui anche qui magari i giovani, ma anch'io devo dire non ho mai sentito parlare in maniera compiuta o comunque non l'ho mai vista all'opera, ma che negli anni 50 era sicuramente, dopo il Real Madrid, la squadra più forte d'Europa. Allora, se ti fidi di uno che da bambino aveva dei parenti lassù e che a Reims proprio, e che li ha ancora, se è per quello, ma insomma le generazioni si sono succedute, e che ha visto due o tre partite di campionato lassù, allora in quella squadra negli anni 50 giocava, non so, Raymond Coppa, mai sentito nominare? Giocava Just Fontaine, il più grande canoniere di tutti i mondiali della storia, no? Con quei 13 gol in Svezia. E poi giocava gente che si chiamava Piantoni, il portiere si chiamava Remeter, Jonquet, e era la più grande squadra di Francia degli anni 50, inizio 60, e poi tu ci ricorderai le sue glorie anche europee, però quello che ricordo bene è questo, che le sue disavventure coincisero proprio con quella frattura di gamba incredibile che subì Justo Fontaine, e che lo costrinse praticamente alla zoppia, e quindi alla fine carriera, quando aveva 24 anni, ed era un attaccante che probabilmente avrebbe fatto, insomma, comunque fino ai 24 anni aveva la percentuale di realizzazione uguale o se non superiore a un certo Gerd Müller, tanto per dire, no, uno qualunque. Guarda Gigi, non so perché, ma Fontaine è un personaggio che mi ha sempre affascinato. Eh beh, per il fatto che non veniva dalla Francia, ma lui era marocchino di nascita. Certo, pied-noir, classico pied-noir come li chiamavano allora. Esatto. Come Zidane, tanto per fare esempio. Aveva frequentato fra l'altro il liceo francofono più celebre del Marocco, quindi era una persona evidentemente anche, è tuttora, perché gode ancora di ottima salute, sì, molto sì, colta. E sono andato a rivedermi i numeri, sono spaventosi. Just Fontaine, in appena 21 presenze con la nazionale francese, ha segnato 30 gol. Pazzesco. Quindi la media è un gol e mezzo a partita, e allora non si affrontavano l'Estonia. No, l'Azerbaigian non c'era. O le formazioncine, certo. Giocava sempre contro grandi squadre. Come ricordato, 13 gol al mondiale del 58, e l'unico con Ghigia ad aver segnato in un mondiale in tutte le partite, e credo, mi pare, 122 gol in 131 partite con Reims, media anche qui di quasi un gol a partita. Spaventoso. Un gol a partita. Ed è vero, un centravanti che, fra l'altro, un po' come Van Basten, ha visto la sua carriera troncata sostanzialmente sul più bello, a metà, e fu un peccato perché quel Reims, tu hai ricordato dei nomi, aveva fior di campioni ed era fra l'altro un esempio di strepitosa integrazione ante litteram, perché come no? Fontaine veniva dal Marocco. Coppa in realtà si chiamava Kopaczewski ed era figlio di emigranti esuli polacchi, lavoravano, esatto, come minatori nella zona del Calais, e anche lui trovò non solo una splendida consacrazione a livello civile in Francia, ma anche a livello calcistico, tanto che nella finale del 56, la prima Coppa dei Campioni, quel del Real Madrid videro Coppa che giocava con il Reims e dissero: beh, questo qua conviene averlo dalla nostra parte. Tutto sommato, è meglio che ce lo tiriamo a casa noi al Bernabeu. Sì, stiamo facendo una sosta un po' lunga, Reims, ma secondo me ne vale la pena, ne valeva e ne vale la pena, proprio perché c'era del fascino in questi racconti. Pensa che Justo Fontaine, visto che ci stiamo soffermando questo personaggio straordinario del calcio, che purtroppo noi italiani conosciamo troppo poco, ha fatto anche la seconda voce, e tu te lo saresti potuto trovare, no, di fianco in una telecronaca, e sarebbe stato, ti garantisco, un po' imbarazzantino, perché se tu ti fossi sbagliato a dire, come dicono adesso, non parlo di te, ma insomma come ogni tanto capita di dire, no, che questo, oppure vedevi anche semplicemente, sottolineavi un passaggio sbagliato a un compagno e tu vedi questo giocatore che gli fa il segno dell'ok di lontano dicendo: beh, la tua intenzione era buona. Se tu avessi sottolineato una cosa come questa, Justo avrebbe detto in tono sprezzante, e ovviamente nel suo francese delizioso, ti avrebbe detto che ai tempi suoi per una cosa del genere on pouvait seulement siffler, si poteva soltanto fischiare, no, perché? Sì, ma fra l'altro ho letto proprio in alcune note su Fontaine che ogni tanto appunto qualche televisione o qualche giornale ha la bella, un trattino brutta idea di convocare Fontaine per commentare le partite. La parte brutta ovviamente è che Fontaine è uno che non le manda a dire. No, assolutamente. Per esempio la nazionale di Francia del 2010, vuol dire del Sudafrica, si è visto riversare addosso da Fontaine di ogni, perché Fontaine, certo, è uno che dice esattamente quello che pensa. Chiaro. Spesso per la televisione diventa un po' imbarazzante. Uno che prendeva la porta. Penso che c'era avere Fontaine a fianco. Anche, lo credo, perché ti saresti e ti divertiresti, perché uno che prendeva la porta come la prendeva lui, che ha percentuale spaventosa di realizzazione. Lui quando vede un tiro che è uscito di 3 metri e sente dire grande tentativo, grande tiro, lui comincia a dire, ma grande tiro cosa? Ma sei finito fuori di 3 metri? Ma ai nostri tempi quando finiva fuori un tiro di 3 metri ti vergognavi e non... Quindi lui magari esagera un po', ma insomma. Ai miei colleghi più giovani, magari a cui basta uno che segna 7-8 gol per definirlo fenomeno, certo. Io ricordo sempre che i palloni, i campi da gioco, le scarpe dell'epoca consentivano molto meno facilità di tiro. Certo. Lui probabilmente i 30 gol in 21 partite di Fontaine in nazionale con le regole di oggi. E con i palloncini 40, di oggi? Sarebbero stati almeno 40-50. Ecco, no? Ho l'impressione anch'io. Vabbè, l'abbiamo fatta un po' lunga con lo Steady Rank. Con lo Steady Rams, adesso facciamo un piccolo intervallo e poi magari acceleriamo sulle altre nazioni. Continuiamo questo viaggio tra le nobili decadute che però stanno rialzando la testa. Da Reims, Düsseldorf non è così lontana, mi pare che anche lì troviamo una squadra discretamente gloriosa che sta risalendo. Esatto, è il Fortuna Düsseldorf che è ai vertici della Zweite Liga, come viene chiamata in Germania la Serie B. E quindi anche il Fortuna Düsseldorf potrebbe tornare in Bundesliga, potrebbe tornare a quelle coppe europee dove spesso ha recitato un ruolo da buona protagonista, anche se non è mai riuscita a vincere un trofeo. E con il Fortuna Düsseldorf potrebbe risalire anche l'Eintracht Francoforte, che è un'altra squadra che spesso abbiamo trovato, soprattutto a livello di Coppa UEFA, abbiamo trovato anche molto avanti nei turni, e sono due squadre che potrebbero fare il percorso che ha compiuto l'anno scorso l'Hertha Berlino, la formazione della capitale, che incredibilmente era retrocesso dopo un campionato che aveva fatto credo non più di 15 punti, ma che per fortuna il calcio tedesco ha immediatamente ritrovato la massima serie, anche perché giocando all'Olympiastadion di Berlino assicura una qualità di pubblico, di spettatori strepitosa. Atmosfera, pubblico, e quindi a parte che il pubblico in Germania è in continua ascesa in prima e seconda divisione, e quindi forse noi dovremmo cominciare a copiare questo modello, no? Direi di sì. Anzitutto dovremmo cominciare a copiare il comfort degli stadi tedeschi, sì, che è qualcosa di strepitoso. Io li ho conosciuti ai tempi del Mondiale di Germania, sembra di entrare nei salotti più che negli stadi. E poi insomma l'organizzazione dei club tedeschi e soprattutto la loro attenzione economica, non si spende mai un euro, prima un marco, adesso un euro più del necessario, certo. E questo ha consentito alle squadre tedesche per esempio di prenderci un posto in Champions League e ragionevolmente di avere un campionato che via via diventerà sempre più forte, perché ovviamente i migliori stranieri finiranno lì. Certo. Senti, farei un salto, sì, questo è un po' brusco, magari non ci andiamo in macchina, insomma andiamo prima in Spagna che in Inghilterra, perché poi il discorso inglese è un po' più lungo, visto che lì è in piena evoluzione, si sta giocando anche in questi giorni. Spagna, beh, nobile decaduta, certamente il Deportivo, La Coruña. Il Deportivo La Coruña, caro a Luis Suarez. Certo, perché Suarez, lì era cresciuto lui. Era proprio di La Coruña, è proprio di La Coruña, ed è cresciuto nel Deportivo La Coruña, poi ha giocato una sola stagione, perché il Deportivo negli anni 50 non era una grande squadra, lui hanno tramettato subito al Barcellona, ma che tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio ha recitato un ruolo da protagonista, addirittura riuscendo a vincere un titolo, che in Spagna per una squadra che non è il Barcellona o il Real Madrid è qualcosa di strepitoso. Titolo, due coppe di Spagna e soprattutto una grande avventura nelle coppe europee e soprattutto in Champions League, dove nel 2004, e qui mi spiace per i tifosi della Juventus e del Milan, fecero filotto, eliminarono negli ottavi la Juventus e nei quarti di finale il Milan, lo ricorderanno con molto rammarico i tifosi rossoneri, che avevano vinto 4-1 all'andata e al ritorno persero addirittura 4-0 contro il Deportivo, che però era una grande squadra con un centravanti come l'olandese Mackay, c'era Pandiani, c'era il portiere Molina, l'allenatore era Irureta, che io ricordo anche da giocatore in Athletic Bilbao. Insomma, era una squadra che per almeno 4-5 anni recitò un ruolo di buonissima protagonista in Europa. Non arrivò mai a vincere la Champions, ma arrivò comunque sempre, quasi sempre, nella fase di eliminazione diretta. 1,5 miliardi di euro di offerta, che non è poco per un piccolo club. Certamente sì, e se non ricordo male, nelle annate precedenti aveva lanciato in Europa un certo Rivaldo, perché poi noi quando abbiamo visto arrivare Rivaldo al Milan era nella sua terza età, no? se non ricordo male, ma il Rivaldo giovane era veramente un grande campione. Ed era il Rivaldo per cui il Barcellona fece giustamente delle follie, nonostante ci fosse Van Gaal che voleva quasi esclusivamente olandesi, ovviamente per Rivaldo fece un'eccezione, corretto, perché lui in effetti cominciò col Deportivo La Corugna. Io personalmente, che sono simpatizzante del Manchester United, ricordo una partita tra Barcellona e Manchester United al Camp Nou, che terminò 3-3, una partita bellissima. Io ricordo soltanto che tutte le volte che va la palla a Rivaldo aveva i capelli dritti, perché disse veramente con un terrore quelle mosse di Rivaldo, che fra l'altro fece qualcosa come 2 gol in quella partita. Lui che pure non era un attaccante puro, ma era un rifinitore, ecco. Certo. Senti, nobili decadute anche in Inghilterra. Qui situazione un po' più fluida perché si sta giocando in continuazione, però mi pare che siano più d'una qua le squadre che dalla seconda divisione possono salire. Guarda, il mio sogno è che si completi questo terzetto: Southampton, West Ham e Leeds United. Ah, però, cioè, tu hai già fatto le tabelle promozioni. Guarda, il Leeds, che negli anni 60-70 fu addirittura una delle migliori squadre d'Europa, anche se spesso il suo gioco era più vicino ad infrangere la legge che altro, perché è veramente una squadra molto forte tecnicamente, ma anche molto molto cattiva. Un nome per tutti, Billy Bremner, ecco. Era il trascinatore di quella squadra. Sì, però di quelli che era meglio appunto girargli a largo. Girare a largo, E il Leeds appunto è in zona playoff, mentre al comando del campionato, praticamente all'inizio della stagione si alternano un po' nelle prime 2 posizioni, ma sostanzialmente sono sempre lì, ci sono Southampton e West Ham, che hanno 2 storie meravigliose. Il Southampton ha vinto un unico trofeo nella sua storia, la FA Cup del 76, la Coppa d'Inghilterra, battendo addirittura il Manchester United, e fu un'impresa strepitosa, perché quel Southampton giocava addirittura era allora nella seconda serie inglese, nella Serie B, e il Manchester era strafavorito. Invece avvennero di quei miracoli che ogni tanto nello sport succedono: una squadra di 10 sconosciuti più un grande campione che era Mick Shannon, che aveva accettato di giocare per tutta la sua carriera col piccolo Southampton, nonostante giocasse nella nazionale inglese, riuscì appunto a compiere quell'impresa straordinaria, al punto che il Southampton è entrato nel cuore anche di tanti tifosi italiani, perché ci sono addirittura dei club di italiani del Southampton, stregati dalle magie di un fenomeno come Matthew Letissier, altro nome leggendario che non ha mai voluto andare in un grande club perché lui si divertiva molto di più a stare al Southampton, dove magari gli chiudevano un occhio sul fatto che si presentasse un po' sovrappeso, visto che era della birra, e insomma lui segnava per il Southampton, e il Southampton gli perdonava insomma un regime alimentare non particolarmente corretto, e alla fine erano felici così. Senti Nicola, scusami, e tra l'altro ogni tanto ricordo gli ascoltatori che sto parlando con Nicola Ruggero, voce storica di Sky, che ci sta raccontando queste splendide storie di nobili decadute europee, ma in procinto di rifarsi, di tornare alla ribalta. No, dicevi che ci sono dei club italiani, di tifosi italiani titolati a Southampton, ma quanto è diffusa questa pratica sul nostro territorio di club intitolati a squadre straniere? Guarda, sembra incredibile, ma è diffusa tantissimo, e uno magari può non sorprendersi se ci sono dei club intitolati al Manchester United, al Liverpool, insomma alle squadre che vanno per la maggiore, ma è incredibile quanto ci siano dei tifosi anche di squadre piccolissime. Io recentemente ho commentato la partita di Coppa di Lega in cui il Crystal Palace a sorpresa ha battuto il Manchester United all'Old Trafford, eliminandolo appunto dalla Coppa di Lega, e mi sono arrivati dei messaggi di tifosi del Crystal Palace Italia. Ma domiciliati dove? Adesso non vorrei violare nessuna privacy, insomma. Però è divertente come fenomeno. Ma è straordinaria. Io devo dire che capisco questa passione, perché spesso il football inglese racconta delle storie così belle che ci si dimentica di stare a guardare il risultato o il grande successo che si conquista alla fine, essenzialmente con un grande club. Ci si può innamorare di un piccolo club. Io per esempio feci la telecronaca in cui il Southampton nel 2005 retrocesse in seconda serie, dopo 28 anni di permanenza nella massima serie, che era un primato per una squadra con delle risorse finanziarie molto limitate, E ricordo come esempio di civiltà sportiva assoluta i tifosi che alla fine del match, che come potrebbe accadere in Italia, si creda, va a lavorare nella migliore delle ipotesi. Sì, ma se proprio va bene. Ecco, appunto, e poi purtroppo ci sono anche delle ipotesi diverse. Peggiori. Bene, i tifosi si alzarono in piedi e cominciarono a incitare i giocatori, i quali tornarono addirittura in lacrime dal centro del campo per salutare dei tifosi che in quel momento lì capivano che il problema non era quella retrocessione, ma che loro avevano assistito a un miracolo di stare per 28 anni con le grandi, pur con un budget ovviamente limitatissimo. Sì, la domanda successiva, visto che tu conosci bene, così bene la realtà britannica, ma purtroppo vivi, o per fortuna, non lo so, questo lo decidi tu, vivi in quella italiana, sarebbe quanto ci mettiamo ad arrivare ad assimilare questo genere di cultura sportiva? Ma temo di conoscere la risposta. Guarda, ma il mio sogno, quando io vedo le partite inglesi dove inquadrano dei bambini insieme ai loro genitori tranquillamente seduti nello stadio, io mi chiedo sempre, ma perché non è possibile così anche da noi? Cioè, cosa ci costa eliminare quelle che tra l'altro sono minoranze violente, per lasciare spazio appunto ai bambini, per lasciare spazio a chi allo stadio va per divertirsi come dovrebbe essere? E oltretutto non è un discorso romantico, è un discorso economico, perché sicuramente eliminando le fecce violente, che sono 100-200 persone per squadra, e che tra l'altro difficilmente poi pagano il biglietto, sicuramente sarebbero come minimo 10.000 persone pacifiche in più allo stadio. Quindi non capisco perché i club non applino questa operazione di pulizia che giocherebbe prima di tutto alle loro casse. Non c'è nessun dubbio. Senti, ti rimane di questo trittico britannico, ti rimane il West Ham. E qui col West Ham andiamo ancora indietro nel tempo, perché i tifosi del West Ham hanno un canto particolare, che è: noi siamo i veri campioni del mondo. Per una ragione, che nella formazione che vinse il mondiale del 66, sia pure con mille polemiche in seguito agli arbitraggi che, mettiamolo così, non furono proprio favorevoli all'Inghilterra, diciamo che furono piuttosto cavallereschi, ecco, con l'Inghilterra. Bene, in quella squadra lì erano presenti tre giocatori del West Ham. Il primo è una leggenda, Bobby Moore, che era capitano del West Ham e della nazionale inglese, forse il giocatore più elegante che l'Inghilterra abbia mai avuto nella sua storia. Gli altri due erano Martin Peters e Gio Farst, che sono stati i giocatori che hanno firmato i 4 gol nella finale con la Germania. Uno Martin Peters, 3, in realtà erano 2, ma insomma per le statistiche rimangono 3, Gio Farst. Ed ecco perché i tifosi del West Ham quasi si vantano di non aver mai vinto il titolo nazionale. E tanto ha già vinto un mondiale. Esatto, loro dicono: a noi abbiamo vinto un mondiale, quindi siamo superiori. No? Beh, fantastico. Rimaniamo lì così, come stiamo. Ed è una tifoseria molto calda, molto appassionata, quella del West Ham, di grande trasporto. Anche qui hanno il loro club, sono gli Hammers d'Italia, che mi scrivono in maniera copiosa tutte le volte che io faccio West Ham. Ma quest'anno non lo posso fare perché sono nella seconda divisione. Certo, non l'avete. Ma nella massima serie mi seguono con grande attenzione. Ed è anche questa una squadra che insomma manca molto alla Premier League inglese, la speranza è che si possa completare questo ritorno in tempi molto brevi. Bon, allora, Southampton, West Ham e Leeds sono le tre squadre che tu vuoi che salgano in Inghilterra. Sì, che mi piacerebbe molto. Perfetto, Deportivo La Coruña in Spagna, Stade Reims in Francia e Fortuna Düsseldorf in Germania, se vengono su insieme al Torino, non, insomma, ti rendono discretamente felice quest'anno. Faccio filotto, soprattutto il Reims, chissà che magari non debba andare a Reims, nel qual caso dal punto di vista enogastronomico sarei... Potresti cavartene eventualmente qualche indirizzo di scorta, te lo posso fornire anch'io. Noi ci risentiamo, peraltro molto prima, ma certamente a fine stagione facciamo un bilancio di queste, no? Tutto questo sangue blu. Grazie Nicola. Grazie a voi e ancora buon anno agli ascoltatori. Voltiamo pagina, adesso TV in questo lunedì 2 gennaio in compagnia di Antonio Di Pollina. Buon anno Dip. Buon anno a tutti quanti. Allora, ricordo e segnalo, critico televisivo di Repubblica, tenutario, usiamo questo linguaggio che mi piace da matti, tenutario di una deliziosa rubrica sulle pagine sportive del lunedì, da cui escono, ma io non direi mai massacrati, insomma sottilmente trafitti molti dei personaggi che abitano e popolano il mondo televisivo sportivo nella fattispecie. Io comincerei, Antoine, da un da una riflessione che è questa. In questi giorni in Inghilterra si sta giocando letteralmente a manetta, no? Non esci da una diretta che già ce n'è un'altra e la gente è a casa, fa freddo, magari la TV è vicina al camino. Ora, la domanda è, sino a quando secondo te le pay TV italiane subiranno la sosta invernale? Ma noi siamo un paese abbastanza particolare in cui se si alza uno e dice ragazzi, signori, il Natale bisogna salvaguardarlo, stare in famiglia e giocare a tombola il pomeriggio e andare magari al cinema a vedere qualche film di qualche magari anche presidente calcistico che non va alla grandissima e bisogna tirarlo su di morale, a quel punto il calcio si è sempre adeguato abbastanza e credo che quello sia davvero l'ultimo tabù, sai quando si fanno i titoli cade l'ultimo tabù, cade, l'ultima frontiera, ecco quando succederà quello si potrà scrivere davvero che è caduto l'ultimo tabù, un bel turno a Santo Stefano sarà davvero una sorta di apoteosi, non oso però immaginare come reagiranno i calciatori. Volendo possiamo dire che un campionato così composito di stranieri che tornano a casa, di argentini che se ne vanno al caldo e così via, è una difficoltà in più da un certo punto di vista. Sì. No, non è che in Inghilterra non ci sia. No, ce n'è qualcuno anche lì, mi pare, no? Esattamente. Quindi, ma lì la tradizione è assolutamente diversa. Sottolineo peraltro che là ci stanno anche un po' attenti, perché in realtà a Natale e anche a Capodanno la gente vogliono anche farla andare allo stadio soprattutto, certo. Tanto che alcune di queste partite che noi invece da qua, quelle loro, ci godiamo in diretta scappando via sotto il tavolo dalla tombola della cosa, o fingendo un malore, certo, e lasciando nipoti con il palmo di naso, Esattamente, e ci si piazza davanti al Manchester City, qualcuna di queste partite viene anche trasmessa solo in differita, cioè fanno un po' di, come dire, scena, fanno un po' di cosa per salvare un po' capra ai cavoli, però la tradizione è là è quella e qua è esattamente l'opposto. Quindi davvero è il tabù finale, calcisticamente parlando, quando ci arriveremo, secondo me non prestissimo, a occhio e croce, allora saremo assolutamente equiparati. Abbiamo fatto, qui al massimo davvero possiamo essere scappati sotto il tavolo della tombola per il calcio inglese, per l'NBA come è successo la sera di Natale e così via. Sì. Ma per il nostro campionato tu dici che... Questo tabù è ancora lontano dai frani. Sai che tu parlando di tabù... Vorrei dire che ci potrei scommettere, ma è meglio non usare... Non è un grande periodo. No, dato che parlavi di tabù, me ne hai collegato automaticamente un altro, che insomma non c'è dubbio che, lo dico al massimo rispetto, non c'è dubbio che anche Santa Madre Chiesa, no, veda il periodo delle festività in Italia. Diciamo che noi abbiamo una certa contiguità, no, con questo genere di osservanze. E credo che le cosiddette feste comandate, il periodo delle feste comandate, insomma, sarebbe un po' come chiedere l'ICI, in fondo, no? Da un certo punto di vista. No, non, a proposito di tabù e di sacralità definitive, no. Sarebbe qualcosa del genere. Del genere. Da un punto di vista economico, quel tabù è equiparabile a quello di cui abbiamo parlato finora. Cioè, dovrebbe esserci una specie di rivoluzione davvero. Però, sai com'è? È già passata la partita di mezzogiorno e mezza della domenica. Piano piano questi erodono posizioni, cioè si avvicinano un minimo, perché inalberando il vessillo ideale soprattutto del dio quattrino in questo caso, sì. Alla fine qualcosa si riesce sempre a ottenere, da qualche parte si riesce sempre ad andare. Dunque, io ho sotto mano un ritaglio di Repubblica, di un articolo tuo, che apriva una doppia paginata lunedì 5 dicembre, in cui scrivevi un processo irreversibile. Ricordo soltanto brevemente a chi ci ascolta l'argomento, che era questo. Il 23 novembre era partita una raffica di, o il 20 novembre, insomma una raffica di 33 giorni ininterrotti in cui tra Serie A, ogni tanto B, Champions, ogni tanto Europa League, comunque c'è stata questa saldatura che si è conclusa soltanto mercoledì 21 dicembre. Calcio in diretta tutti i santi giorni, anzi tutte le sante sere, e con appuntamenti di grande prestigio. Allora, tanti discorsi, tante valutazioni, la tua opinione è: indietro non si torna proprio. Sì, devo dire che a me spiace pensarla e dire le cose, le stesse cose in merito che dice Adriano Galliani, perché c'è una differenza abbastanza forte. Cioè, Galliani le dice, se ne compiace e intanto intasca certo, quanto il dovuto per il fatto di pensarla così e far andare le cose di conseguenza. Personalmente invece al massimo intasco il vantaggio di avere alternative tutte le sere alla TV normale che mi tocca, sì, ma io sono un caso unico e certo, quindi, abbastanza unico, perlomeno comunque raro, e quindi non sono due cose equiparabili. Sì, il senso è quello, perché soprattutto una battaglia di questo tipo che va a contrapporsi a una situazione che nasce esclusivamente, come dicevamo prima, da valutazioni economiche molto forti, molto pesanti. Adesso le percentuali a memoria qui ora non me le ricordo, no, ma Galliani stesso abbia parlato di 80% dei ricavi delle squadre dalle televisioni. Quindi cioè, se c'è un signore che a me personalmente dà l'80% di quello che guadagno completamente, per me rappresenta una specie di Dio in terra. Certo. Se mi chiede di andare, di lavargli la macchina il sabato alla Fontanella, io gliela lavo. Certo. Evidentemente. E comunque tendenzialmente torto non glielo dai, insomma, no? No. È probabile che abbia ragione lui. Logica, sì, cioè, certo, una logica c'è sempre in queste cose, poi è la loro logica, è una logica che è attaccata esclusivamente al discorso economico, e ha fatto ormai piazza pulita, raso terra, ha rasato a zero qualunque discorso ideale sul passato, su come era bello una volta, su come sono belle le partite in contemporanea e così via, però non si può. Cioè, se ci si vuole contrapporre a questi signori, bisogna fare dei discorsi d'altro tipo, che non siano quelli puramente ideali, perché sappiamo che viviamo ormai in un tempo, in una società, no, ma in cui la contrapposizione ideale, guarda caso, non va mai a buon fine, nel momento in cui invece si possono fare in alternativa discorsi economici di profitto e di guadagno. Ma io ti dirò che è non solo realista, ma insomma è giustissimo il discorso che tu fai del processo irreversibile, cioè dell'indietro non si torna. Però la mia domanda successiva è: ma avanti dove si va? E dove si va non tanto nel senso quantitativo, ma dove si va partendo da questo presupposto? Il timore per loro, non certamente per noi, la sensazione comunque non soltanto vaga, che, come si diceva una volta in questi proverbi banali, che però è una saggezza popolare, insomma, il troppo stroppia, che a un certo punto anche i sapori più graditi stuccano, e che quindi possa esserci da parte loro, da parte loro di chi ti offre tutto questa buffata, ci possa, che non gli venga mai il sospetto che ci può essere la sazietà. Guarda, proprio per quelle pagine di cui parlavi prima, inizio sì, settembre, su cui abbiamo lavorato in alcuni, cioè, insieme ad alcuni colleghi di Repubblica, ci siamo posti il problema di: ma come stanno andando queste partite così scaglionate dal punto di vista televisivo, chiaramente? Sì. Così. Abbiamo chiamato questo, quell'altro ancora. Il guaio è che a loro il discorso torna, perché c'è un aumento effettivo di pubblico davanti alla TV, che poi la gente non vada allo stadio, a questi delle TV non è che si può rimproverare più di tanto, perché no, certo, loro sì, esattamente, loro fanno il loro discorso, poi dicono: in Inghilterra, dove gli stadi sono comunque pieni, appunto, o in Spagna ancora di più e così via, c'è qualcosa di diverso che prescinde dal discorso televisivo calcistico e che fa andare comunque la gente allo stadio, per cui gli stadi nuovi, le offerte d'altro tipo e così via, o comunque una voglia sicuramente maggiore di uscire di casa, di stare fuori, di partecipare collettivamente di persona a un rito di quel genere. Altrove funziona. Tu mi dici qual è il punto, il troppo stroppio. Allora, noi abbiamo riscontrato in quella cosa che il pubblico aumenta, il pubblico più si scaglionano le partite al momento, e più c'è il pubblico e le TV possono portare all'incasso un numero di spettatori importante, e in crescita. Qual è il punto limite? Il punto limite è assolutamente scovabile, cioè individuabile, ecco, che suona meglio, ed è il giorno in cui si giocherà davvero una partita per volta e di seguito, e non ci saranno mai due partite in contemporanea per esigenze televisive. Per determinate fasce orarie e di giorni succede già in Spagna. Poi sempre il nostro amico Galliani dice che l'NBA fa così per tutto quanto, ma quello è un lui vede troppo lontano per noi mortali. Certo. E quindi il punto limite sarà quello. Teniamo conto che poi è anche successo che mi pare che ci sia stata una sorta di ampliamento di un regolamento quasi interno alla Lega quest'anno, per cui se sei stato in trasferta in Europa League il giovedì puoi chiedere e ottenere senza problemi il posticipo al lunedì. Lunedì, magari andando a sovrapporsi a un'altra partita che c'è già, è successo la domenica sera con l'Udinese, sì. La sera mi pare di Napoli-Roma. Quello per esempio non è un discorso prettamente televisivo, perché no, questa è un'esigenza, esatto. Un'esigenza societaria che dovuta a sovraffollamento al calendario. Esattamente, le TV lì dove intervengono nel dire ok, volete giocare la domenica sera, facciamolo pure, a noi non fa piacere perché a noi la contemporaneità comunque non ci fa gioco, basta che Napoli-Roma, che è quella che ci porta il grandissimo pubblico, certo, quella sera lì rimanga il posticipo della domenica sera, è tutto un gioco di questo genere. E poi vedetela un po' voi. 2 gennaio di chissà quale anno, quello che avrà scelto anche oggi per noi Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 gennaio 1971. All'Ibrox Park, casa dei Rangers di Glasgow, va in scena l'Old Firm, storico derby con i rivali del Celtic. I Rangers vanno in svantaggio all'89esimo, ma riescono a pareggiare all'ultimo secondo, mentre una parte del pubblico sta già abbandonando gli spalti. Alla notizia del pareggio si scatena il panico, la folla si accalca causando la rottura delle barriere di protezione. Ne scaturisce uno dei peggiori disastri nella storia degli eventi sportivi, con 66 morti e circa 200 feriti. Il disastro di Ibrox, secondo nella storia dello stadio scozzese dopo quello del 1902, porterà a una radicale ristrutturazione dell'impianto, che lo renderà uno dei più affidabili d'Europa. Torniamo in compagnia di Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica. E adesso arriviamo alla RAI. Arriviamo alla RAI, si è letto negli ultimi tempi che per ovvie ragioni economiche sarebbe a rischio estinzione anche 90esimo minuto, e quindi non solo un pezzo di storia RAI, che pazienza, le storie ogni tanto cominciano, ogni tanto finiscono, ma al di là della storia, mi pare una delle ultime buone ragioni per pagare il canone, magari poi con l'audio non proprio a palla, ma insomma, perlomeno quel minimo di documentazione in un orario civile che la RAI aveva conservato, o sbaglio? Sì, no, non sbagli. Il discorso è in piedi e prima o poi probabilmente ci si arriva. È anche vero che la prima volta che sui giornali abbiamo lanciato l'allarme, la RAI perde il 90esimo e così via, io ero molto più giovane di ora, e non è ancora successo, però è anche vero che diciamo 3 domeniche su 5 il piatto che riesce a imbandire il 90esimo minuto di partite fresche disputate nel pomeriggio è davvero povera, poverissima cosa. Ogni tanto c'è il Chievo come squadra superstar, insomma. Esattamente. No? È già successo, è vero. Esatto. Siamo sotto il livello di sussistenza e alla RAI, se sono un po' arrabbiati per questo, ma dovrebbero pigliarselo soprattutto con chi ha versato molti soldi in realtà per un prodotto che si va depauperando sempre più, hanno tutte le ragioni del mondo. Vogliamo poi dire che comunque il plotone degli interessati forti al calcio, che è assolutamente come sempre più consistente in questo paese, un modo per guardarsi le partite in diretta lo trova anche se non ha l'abbonamento in casa. Vogliamo dire poi che, per esempio, sempre per motivi economici, dall'anno prossimo la Rai rinuncerà anche alla Champions League. Il futuro da questo punto di vista non è esattamente roseo, cioè, si rischia che con gli europei prossimi venturi, non dico che si chiuda un po' baracca ai burattini, ma che si arrivi a un ridimensionamento vero, oppure la Rai riuscirà a ottenere dalla Lega Calcio il discorso: ci date un tozzo di pane, lo paghiamo come un tozzo di pane. Ma la Lega Calcio da questo punto di vista non ci ha mai sentito più tanto, e alla fine, guarda caso, per incroci strani che poi si creavano tra, come dire, dirigenze calcistiche, televisive e a quel punto anche politiche, alla fine il soldo sufficiente veniva fuori. Sì, questo sì. Tu hai detto il rischio, hai usato questa parola. È un rischio, indubbiamente, che tutto sparisca dopo gli europei, da un punto di vista, diciamo, pure sociale, no? Perché il calcio fa parte, non so se fa parte o meno del pacchetto Istat, ma è come se facesse parte del pacchetto Istat per un paese come il nostro. Però è anche vero che se invece ti metti la giacchetta da critico, immagino, insomma, oppure facciamo così, io mi metto gli scarponi chiodati. Se io dico che il livello del calcio Rai, parlo di commentatori, parlo di intrattenitori, è da TV privata medio piccola degli anni 80, tu cosa rispondi? Ti rispondo che è assolutamente difficile smentirti. Ti rispondo che secondo me sono anche in una profonda crisi di identità loro, per i motivi che abbiamo detto, sì. E soprattutto non sanno davvero qual è il pubblico a cui si stanno rivolgendo, perché abbiamo detto che gli appassionati veri, quelli a cui, con cui puoi scatenarti nell'analisi delle partite, ammesso che hai voglia e la capacità di farlo, probabilmente non sono lì in quel momento, quindi non lo sanno neanche esattamente loro a chi stanno parlando e quindi come devono comportarsi. E in più ci aggiungerei, oltre alla caratteristica che hai detto tu, il fatto, la scopiazzatura totale ormai per molti telecronisti, per molti di quello che ha fatto Sky e dei modi e dei toni di, sì, lanciati da Sky negli anni, per cui si urla, sì, il giorno dopo che viene lanciato un nuovo modo di dire da quelli di Sky o di Mediaset Premium riguardo a una partita, trovi subito il protagonista Rai che ripete, forse vuole farsi notare proprio da quelli di Sky, però sì, sono piccole debolezze umane, però certo, esatto, però voglio dire, la situazione è talmente, come dire, moscia di suo, sì, che mi stupirebbe assai che invece fosse l'offerta a quel punto fosse qualitativamente alta, perché non ci sono le famose motivazioni in questo caso, per di più quando si alza appunto la dirigenza massima della Rai e dice: sapete cosa c'è, la Champions l'anno prossimo se la prende Mediaset, il morale va abbastanza sotto di sì, città, certo. E anche le motivazioni medesime, certo. Che ne so, inventarsi, cioè, se anche ci fosse la possibilità di uno che è un super bravo, che vede un talento giornalistico sublime, è abbastanza difficile appunto motivarlo in presenza di un panorama che va sfarinandosi sempre di più. Non c'è dubbio su questo. Senti, non dico per parità di trattamento, ma per parità di considerazioni. A sua volta non è un po' stanca Sky, sto parlando di qualità adesso, non tanto di quantità, e cioè ho come l'impressione che questo rito del dopo, questo rito del prima, professionalmente non voglio dire, ma che so, i Massimo Mauro, non si sentirebbe magari a parer tuo ogni tanto il bisogno di un po' di ricambio, di un po' di freschezza? Sì, forse anche di un po' di, come dire, di difficoltà oggettive che venissero fuori, perché loro si sentono, e lo sono in fondo, padroni della situazione, hanno tutti gli allenatori in esclusiva, in anteprima, e quindi le prime cose le dicono da loro, le agenzie di stampa riprendono quello che gli allenatori e i giocatori dicono a Sky e diventa il verbo. C'è un po' di appagamento da questo punto di vista che deriva dalla postanza e dalla potenza che hai in campo e dall'aver occupato tutte le caselle migliori del campo di gioco. Questo sicuramente c'è, però sai, non so, bisognerebbe anche che qualcuno mi dimostrasse che i parenti fanno l'abbonamento a Sky Calcio per i commenti, sì, sì, e certo. Lo facciano per, certo, perché no è dubbio, in maniera che il novantesimo fondamentalmente sia il punto limite. Il vantaggio del calcio dilagante in TV è che persone che hanno molto da fare nella vita possono impiegare 90 minuti esatti più recupero per la partita e poi dedicarsi ad altro. Questo non dimentichiamocelo. No, assolutamente. Un altro fattore, non ci ponevamo granché questo problema quando, per esempio, il panorama dei commenti post partita era pressoché ridotto ai minimi termini, ma non se ne accorgeva nessuno perché il primo a uscire davanti alle telecamere si chiamava Mourinho, certo. E lui riempiva e sembrava che il calcio parlato fosse la cosa comunque più viva che ci fosse in Italia. Se ne va via anche lui e poi fare la stessa cosa con i altri, qui... non farmi fare nomi. No, certo, ma qui è uscita anche un po'. In questo momento non vorrei fare. Certo. Diciamo che qui è uscita anche un po' la vedova nerazzurra. Senti, e d'altra parte è difficile pensare che si possano fare nuovi abbonati con rigorometro, no? Con tutto rispetto per... Che mi è anche sembrato ultimamente di averlo visto un po' sparito dalla casa. Sì. Aveva un'aria, sembrava un test di gravidanza che all'improvviso che doveva colorarsi con le cose, era una cosa che mi ha messo. Guarda, il rigorometro che sembrava un test di gravidanza è una battuta sensazionale che, guarda, ci restano 30 secondi, forse un minuto, però devo ricambiarla assolutamente con questo frammento degnissimo, secondo me, di una rubrica come la tua, come Schermaglie. Quando facevo l'allenatore dilettante con dei ragazzini che non facevano un passaggio più in là di 4 metri e che riuscivano a chiudere la partita con il 70% di tempo di possesso palla. Pensa Antoine, prima del Barcellona era stato il miglior tecnico degli ultimi 150 anni. Beh, ma del resto i ristoranti sono tutti pieni. Sì, come no. E come allora erano piene le tribune dell'Edil Nord, no? Per questo spettacolo calcistico. Molto bene, io a me non rimane che ringraziarti, darti appuntamento per una prossima edizione di questa nostra trasmissione e riaugurare ad Antonio Nipolina buon anno. Buon anno a tutti. Grazie allora a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Appuntamento a domani. A tempo di sport.